Mr. M, who's with you, sir? El señor Tavares is proud to keep you warm. Bienvenidos a todos los vatos. Bring on your niggas, you holy what you gonna hear. Baby, can show me that you can. Baby, can show me that you can. Baby, show me that you can. Baby, can show me that you can. Bring on your niggas, you won't believe what you gonna hear. Siete sintonizzati su Radio Onda d'Urto e questa è la terza stagione di Radio BAM, ovvero l'episodio numero 57, e questa sera sarà veramente un episodio speciale. Ma cominciamo con ordine. Abbiamo due ospiti questa sera in studio e ne avremo poi altri. La nostra platea di opinionisti è composta stasera da Franz, che sono io, ovvero il Dungeon Master di tutto, Luca Frazzi da Fidenza, ciao Luca. Ciao a tutti. E Cischi, che avete già avuto modo di conoscere settimana scorsa nell'episodio 56, il primo di questa stagione. Ciao a tutti, Franz, è un piacere esserti compare in questa seratona pop. Allora ragazzi, questa sera è una puntata storica per quanto riguarda Radio Onda d'Urto, perché non credo, almeno per quanto mi riguarda, che Radio Onda d'Urto abbia avuto un ospite dell'importanza così elevata di quello che abbiamo, che stiamo per avere questa sera. Almeno... Mi fa piacere, sono, cioè, d'accordo, ma c'ero già l'ultima volta, non mi sembra il caso che adesso tu esageri in questo modo. Allora, Luca, innanzitutto grazie per essere tornato. No, Luca Frazzi. Grazie a voi per l'invito, grazie a voi per l'ospitalità, grazie a voi per aver organizzato appunto una serata così importante, che noi facciamo ancora in tempo a lanciare un appello, perché magari molta gente in giro, esattamente, molta gente esattamente non lo sa, quindi nel corso della trasmissione magari lo ribadiremo, il fatto che questa sera a Brescia suona Paul Collins, esatto, e che Paul che Collins sarà qua in mezzo a noi. Si spera, poco. Incrociamo le si dita. Si spera, sì. Incrociamo le dita. Ti presento, sì, per chi ascolta questa radio ormai da tempo dovrebbe conoscerti, Luca Frazzi, giornalista di rumore, nonché scrittore, visto che ha pubblicato ultimamente i testi commentati dei Clash. Giusto? Vuoi parlarci giusto a proposito di questo libro? Del libro? Oh, abbiamo anche un altro ospite questa sera, ma prima concludiamo, sì. I Wanna Riot, ah, sì, testi commentati di Clash. Per Arcana, per Arcana, uscito qualche mese fa, questa collana dei testi commentati, non è la prima cosa che pubblico, però forse la cosa più importante era quella alla quale tenevo di più in assoluto. Esatto. È una cosa un po' vecchio stile, nel senso che in pochi in questi ultimi tempi si dedicano al commento dei testi, non ero abituato a farlo neanche io, ma mi ci sono un po' inventato e direi che ne è venuta fuori una cosa interessante. Perfetto. Poi Luca Frazzi ovviamente anche un apprezzatissimo critico musicale per Rumore, infatti lui è qui stasera in quel del Lio Bar ufficiale, di Brescia, sì, per recensire il concerto. E abbiamo anche il nostro capo, questa sera siamo guardati da dietro da Gianluca Feder Maresciallo. Visto che qua a guardarci, a spiarci, mentre stiamo aspettando appunto Paul Collins Beat, che in questo momento sta effettuando il soundcheck o probabilmente mangiando in quel del Lio Bar. Lo ripetiamo, Radio Days e Paul Collins Beat stasera dalle 11 in poi in quel del Lio Bar, zona via stazione Togni centrale 43. Ok, perfetto, okay. Sappiamo anche la via, credo che nessuno a Brescia lo conosca, ma diciamo lo dico zona io centrale, per i non bresciani, via Togni 43. Perfetto. I nostri ascoltatori si chiederanno, soprattutto i camionisti che stanno passando per la 4, chi è Paul Collins e soprattutto perché è così importante Paul Collins. Beh, possiamo subito spiegarlo passando un semplice pezzo che fondamentalmente ha scritto lui. Questi sono i Blondi con Hanging on a Telephone. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. She's I said, hey DJ, play that song for me. Over and over. Hey DJ, play that song for me. I'm listening to ya. It's 1 o'clock at night and I'm in bed. I got my radio glued to my head. All the lights are out and I should sleep. The music, it sounds so sweet. I wake up morning with my radio on. It's 8 a.m. again, I don't know how. I gotta hurry up, or I'll be late. But the world and everyone can wait. Hey DJ, play that song for me. Over and over. Got my pillow and the radio's on. Airwaves are coming through to me. Play me something to make me dream. Hey DJ, play that song for me. Hey DJ, over and over. I'm listening. 99.6 di Radio Onda d'Urto. Questa è una puntata tutta speciale. Abbiamo appena sentito i Cheaters con It's Alright. I Cheaters sono un gruppo norvegese che saranno in tour da noi in Italia settimana prossima e saranno tra l'altro ospiti di questo programma martedì prossimo dalle 9 alle 10 come sempre Radio BAM. Prima appunto del loro concerto al Lio Bar di Brescia. Le altre date saranno mercoledì 7 allo Stube di Trento, giovedì 8 al Moz di Montevarchi in provincia d'Arezzo, venerdì 9 al Milano al Surfers Den, sabato 10 a Cesena all'Officina 49 e infine domenica 11 al Davis Den di Salso Maggiore Terme. Il Cheaters se le ha lette tutte dal palmare. Esattamente. E ciò non è rock, esatico, e non no, è rock, non and roll. Dall'iPhone è ancora meno rock and roll. Li conosci Cheaters, Luca? Come no. E cosa ne li pensi? Li conosco bene, no, gran gruppo. Tra l'altro i Cheaters li ho visti appunto dal vivo l'ultima volta che sono venuti in Italia a Salso Maggiore al Davis Den. Esatto. E mi hanno ricordato tantissimo le vecchie formazioni garage scandinave appunto della metà degli anni 80, che suonavano un garage molto molto ruspante, accademico nel senso buono del termine. Dal vivo bravissimi, sì. Bravissimi. Forse gran meglio belvedere. Anche dal vivo, che cioè su disco, sì, molto, sì, bravi, sono ma meglio dal vivo. Sono d'accordo, meglio dal vivo. Cischi, tu li hai visti? Non li ho visti, ma mi hai fatto una testa così dicendo che sono tipo la miglior band del mondo live. Ogni band che porta Franza è la miglior band. Sostanzialmente sì, quindi mi sa che e martedì verrà. E le altre fanno vabbè. Schifo le altre. Esatto, sì, soprattutto quelle che... Vabbè. Prima dei Cheaters abbiamo sentito i Radio Days con I Belong To You, tratto dal loro 7 pollici brand new, come si dice, ovvero appena uscito dalla fabbrica. Fresco, oggi. Fresco. Sì. Pubblicato split insieme a Paul Collins Beat, niente che meno. Presentano appunto stasera la serata del Lio Bar. Radio Days con I Belong To You, 7 pollici uscito su Surfing Key Records, etichetta di Pisa se non mi sbaglio. Sì, Toscana. Mi sembra sia www.myspace.com/surfingkey con la K Records per ordinare la vostra copia, oppure venite a una delle date di Paul Collins Beat in Italia questa settimana, che vogliamo ricordare stasera al Lio Bar di Brescia, domani al Lazzaretto di Bologna, giovedì al Metz di Roma, venerdì allo Spazio 211 di Torino, sabato al Medley di Castelnuovo in provincia di Piacenza e domenica infine all'Oste di Domodossola. E questo, un massacro. Voi siete testimoni, sì. L'ho detto senza palmare. Bravo Franz, bravo Franz. Grazie. In attesa che arrivi Paul Collins, abbiamo sentito poi un pezzo di Paul Collins Beat tratto dal loro ultimo album su Get Hip Records, uscito su CD. Sì, un album che tra l'altro vi fa intuire il fatto che Paul Collins sta tornando, anzi è tornato decisamente a sonorità tradizionali nel senso buono, anche in questo caso, cioè esatto. Si è avvicinato molto alle vecchie sonorità dei primi Beat, quindi questo è un buon biglietto da visita per il concerto che farà stasera. Che andremo a gustarci noi, tra l'altro, sì. Voi che ci state ascoltando dai kebabari o dalle autoradio di Brescia, dirigetevi in... Via Togni, 43. Al Lio Bar è ingresso gratuito, la birra è buona e costa poco. E ci siamo sicuri? Ottime... non siamo sicurissimi. Ok. Prima dei Paul Collins Beat invece abbiamo sentito Blondie con Hanging on the Telephone. E perché questo? Ce lo spieghi te perché? Ve lo spiego io, sono qua per questo. Blondie, Hanging on the Telephone, perché era un brano all'epoca inciso dai Nerves, questa formazione seminale californiana. Fine anni 70, un trio nel quale il nostro Paul Collins era alla batteria, sedeva dietro la batteria, quindi è cantante, polistrumentista completo. Cazzo, Franzi, ma un super trio, perché oltre a Paul Collins c'era un certo Peter Case, che poi sarebbe andato a formare Plimsoll, e un tale Jack Lee, quindi una formazione che diciamo attorno al 76 più o meno, quindi quando stava anche sbocciando il punk in California, se ne veniva fuori con una produzione beat pop sopraffina. Una formazione che ha convissuto con molti dei primi gruppi punk californiani. Mi diceva Paul Collins l'anno scorso, mi ha ricordato tutti i gruppi con i quali ha condiviso il palco, e c'è veramente da segnarsi. Sì, veramente fior di gruppi. E poi appunto Paul Collins un certo successo di cassetta l'ha poi ottenuto proprio con i suoi beat. Che andremo a sentirci stasera, esatto. Che diciamolo, sono in una formazione diversa rispetto a quella degli esordi, mi sembra, esatto. Anche ovvio, sono passati 30 anni da quei momenti, anche di più, però è una signora formazione. Esatto. Formazione che ha un suono robustissimo, molto molto diretto, grezzo, semplice. Quasi sorprendente vedere comunque quanto la formazione sia compatta. Io stesso l'anno scorso ero un pochino prevenuto, poi invece mi sono dovuto ricredere. Gran concerto. Perfetto. Che allora, stasera sarà replicato. Bravissimo. Allora, abbiamo parlato di Nerves. Nerves che hanno appena pubblicato forse la prima raccolta ufficiale che hanno mai fatto. Questa. Pubblicata per la Alive. La Alive che è una diciamo una derivazione di un'altra etichetta storica americana che è la Vox, la Bomb di Greg Shaw. Sì. E quindi un'etichetta che è una garanzia in tutti i sensi. Non a caso la Alive ha dato alle stampe questo bellissimo disco in CD, One Way Ticket, uscito l'anno scorso se non sbaglio, dove c'è tutto quello che i Nerves hanno registrato in studio, e non è tantissimo, in effetti, più alcuni brani dal vivo. Poi mi diceva Franz che in questa serata sarà in vendita anche un LP dal vivo, che abbiamo in esclusiva qua alla faccia, in vinile colorato, che mi ha dato proprio Paul. Gli ho detto: Paul, sai che questo non tornerà mai indietro nelle tue mani. E lui mi ha detto: resta tutto in famiglia. Okay. Quindi hai la sua benedizione. Ma intanto andiamo a sentirci Nerves. Che pezzo vuoi sentire dalla loro raccolta? Paper Dolls. Paper traccia Dolls. Numero 2. 99.6, questa è Radio Onda d'Urto. Wow. No, non siete sintonizzati su una radio di Berkeley, ma sul 99.6 di Radio Onda d'Urto. Quando è partito con Bergam. Ho avuto paura di Bergamo. E abbiamo qua una, insomma, dei commentatori d'eccezione. Abbiamo già presentato Luca Frazzi da Fidenza, Cischi che con... è tipo Nicola di Bari. Terza stagione di Radio Bar mi farà da conduttore, ma abbiamo qua anche il signor Jean-Luc Stott, che tutti bene, voi... di Radio Onda d'Urto, il papi della radio, un po' il papi, è vero, sì, è vero. Basta, cioè, a mia figlia l'altro giorno, credendo di farmi un piacere, mi ha chiamato papone. La tua figlia o la tua figlia? Ha già capito tutto. Ha avuto paura. Jean-Luc, tra l'altro, non poteva perdersi appunto Paul Collins, che voci ben attendibili ci dicono che sta arrivando forse. Danno all'angolo di via Luzzago. E Jean-Luc non ha potuto esimersi dal portare alcuni pezzi della sua immensa e pregiata collezione di dischi. Jean-Luc, cosa ci hai portato stavolta? Ma no, ho preso quelli che avevo lì sotto mano, però c'è dentro. Sto sotto mano. Vabbè. Sì, perché non sono tutti qua, vabbè. No, beh, lì c'è il primo, poi c'è Chizzaroso Seme e poi c'è questo album che era uscito per l'etichetta francese, che è la Closer, che aveva fatto delle cose molto belle, che era proprio specializzato, se potrebbe dire, sul power pop di quegli anni. Allora si diceva semplicemente rock. Si andava a fare tante storie, insomma. Attenzione, intanto suonano al citofono, potrebbe essere lui. Intanto Jean-Luc, ti chiedo, tu che magari l'hai vissuta in Francia in quegli anni, qual è comunque il primo ricordo che hai di Paul Collins, di quando l'hai sentito? Tu l'avevi già sentito con i Nerves, l'avevi sentito con Paul Collins Beat? Sì, beh, sì, con Nerves prima, perché poi vabbè, lui te lo può anche confermare, da quelle parti ha sempre avuto un certo credito, insomma, come tutto quel filone, insomma. Perfetto. Francia, partendo dai tempi dei Flaming Louise, eccetera, c'è sempre stato un forte seguito dietro a questo tipo di sound e questo tipo di personaggi. Francia, non che casualmente era avanti, poi c'erano, no, va detto, è vero, erano più avanti di noi in Francia, decisamente, su rock and roll erano molto più avanti, qualcosa di diverso, è sempre stato questo filone. Non casualmente poi c'erano etichette come la Closer, come la New Rose, eccetera, che insomma no, si sono anche permesso di riproporre tutta una serie di personaggi negli anni che non erano indifferenti. Perfetto, intanto ragazzi, Paul Collins è qua, sta armando della sua chitarra acustica. Confermo. Perché forse ci regalerà qualche pezzo acustico. Noi intanto andiamo a sentirci un pezzo, una gemma tratta dalla collezione personale di Jean-Luc Stott, ovvero il capo di questa redazione musicale. E cosa andiamo a sentirci, Jean-Luc? Il primo pezzo di... Vabbè, adesso... Vabbè, presenta il pezzo e basta. Album della Closer, che è uscito, non so più esattamente. Lui. Chiedi a lui se si ricorda. Scommetto che non se lo ricorda neanche. Paul, All Over the World, the year when you wrote it. Yeah. Yeah. 1982. Okay. When I born. Yeah. So let's the go same to, day yeah, for the me. Same thank day. You so much. Quando è nato io ero già vecchio. Vabbè. Paul Collins Beat con All Over the World, e fra poco ce li andiamo a sentire in acustico. Have a good time. I don't doubt it, but it takes time to find what you got in your heart. Well, I've been searching such a long time just to find the time to be at peace with myself. I don't know. have a good time. I don't doubt it, but it takes time, time to find what you got in your heart. I've been searching such a long time just to find the down to be at peace with myself. Questa era All Over the World di Paul Collins Beat dalla collezione personale di vinili di Jean-Luc Stott, e ho il piacere di annunciarvi che finalmente Paul Collins è qui con noi, e Jean-Luc, sia Jean-Luc che Luca Frazzi sono parecchio emozionati. Insomma, lo studio di Radio Onda d'Urto non è mai probabilmente stato così affollato, vero Luca? Paul, hello. Oh no, we're very happy to be here. I don't speak Italian. Molte grazie. And arrivederci. Mangia, mangia. We don't speak English. Sofia too, Loren. So, Paul, yes, you're gonna play tonight in Leobar. We already said that. Yes. We listened to All Over the World, but before we played the Gentleman Jazz con All I Need Tonight. Oh, you. Great. Very good friend of ours. Very good. Yeah, yes. Because I know you've been, they have been the backing band of your. One of our American tours, and we're going to do another tour. My band that I play with now, we're going to go back to California with Gentleman Jesse, maybe in February. Okay. And before we listen to a special song, Paul Collins Beat and the Yum Yums live in Norway with Walking Out of Love. Yeah, that's great. You can tell us about that one. Well, I'm very lucky. Maybe you should translate. Yeah, don't worry. I'm very lucky because rock and roll has allowed me to play with all these great bands, like tonight with Radio Days. And I met Morten many years ago when I was living in New York. We talked by the telephone, and he was a big fan, so he invited me to come to Norway and do a tour with them. And they played, and then they were my backing band, and that's what you hear. Actually, that recording was made at Harry's Bar in Gutenberg, Sweden. Gutenberg. Mm? Yes, yes. Allora, I translate a little bit. Allora, abbiamo qui Paul Collins, appunto leggenda del power pop. E abbiamo detto che abbiamo sentito prima All Over the World dalla collezione, appunto, di Jean-Luc, che mi dice traduci, quindi no, tradurrò. Ti dice traduci ogni tanta. Ogni tanta. Ogni tanta. Poi abbiamo sentito Gentleman Jazz con All I Need Tonight Is You, tratto dal loro LP su Dutch Master, uscito circa 6 mesi fa. Perché? Perché Gentleman Jazz and His Men sono stati il gruppo che ha fatto da backing band, ovvero il gruppo che suonava insieme a Paul Collins per uno dei suoi tour americani. Sì. Paul Collins diversi anni fa si è trasferito in Spagna e ha fatto un tour vero e proprio con Paul Collins Beat sotto questa nuova veste solo alcuni anni fa, e quindi Gentleman Jazz and His Men. Poi ancora Paul Collins Beat and the Yum Yums dal vivo, pezzo che abbiamo probabilmente passato solo noi in tutto il mondo. Gli Yum Yums sono un gruppo power pop norvegese che riprende un po' da quelle che erano le radici, da quello che avevano cominciato Paul Collins Beat e i Nerves. E Paul stesso ci ha detto che è stato molto felice di suonare con loro. Il rock and roll gli ha permesso di conoscere Morten, che abbiamo avuto tra l'altro qui ospite Radio Band diverso tempo fa insieme a Vibeke Saugestad. Molto felice, esatto, di suonare con lui. Insomma, si ricorda persino quando ha suonato questa versione di Walking Out of Love, dove lui veniva appunto accompagnato dagli Yum Yums. Prima ancora avevamo sentito i Nerves con Paper Dolls, tratto dalla loro raccolta One Way Ticket, edita da Alive. So, Paul. Yes. Thank you so much again for being here. We are really, really excited. Grazie. What we can expect from the show tonight at the Leo Bar? Do you like lots of rock and roll, lots of sweat. Okay. Right now it's great. The band, we play everything. We play stuff from the Nerves, stuff from the Beat, the new songs, the old songs, and it's really a lot of fun. So it would be fun for everyone. And fun for us, and yes, fun for everyone. Yes. How does it feel to be still on stage after so many years and to play in front of very young people? Very happy, very lucky, and very proud, I suppose. Very proud, and it makes me glad that I decided to become a musician many, many years ago. I think it's a special satisfaction to see young people that sing all your songs. Yeah, especially knows all the words of your song. And I have a kid my own, so it's yeah. And a lot of times now at the show, there's fathers and sons who come, and it's wonderful. Perfetto, allora Paul Collins è qui insieme a Dario dei Radio Days, che tra l'altro ciao, stasera, ciao Dario, che è stato qua diverse volte, quindi non ti presentiamo, visto che è stato qua due o tre volte almeno. No, va bene. Sono armati di due chitarre acustiche, sono qui insieme al batterista di Paul. Do you want to introduce who is with you? Yes, on the drums today, playing on a very nice box from Brescia. Good fellas. Is our drummer from Appleton, Wisconsin. He speaks perfect Italian. His name is Chris. Say hello, Chris. Christopher Bongers. Ciao, perfetto. Allora, appena presentato il suo batterista che suona esattamente tra un cartonato. Sono due bacchette su un cartonato. Stiamo improvvisando un po' tutto, ma Paul Collins tenterà insieme a Dario dei Radio Days, che suoneranno in apertura stasera, Paul Collins Beat al Lio Bar di Brescia. Uno speciale set acustico di cui non sappiamo ancora molto bene la provenienza, ma insomma cercheranno di suonare. C'è qua, aspetta, abbiamo una telefonata. Jean-Luc mi dice che abbiamo una telefonata, quindi proviamo subito. Pronto? Pronto, ciao. Chi è che parla? Ciao, sono Giacomo. Ci siamo ciao Giacomo. Ieri sera. Ciao Franz. Ah, ciao Giacomo. E noi grazie. Siamo in macchina, stiamo raggiungendo il Lio Bar con molta calma, siamo ad Agrate. Perfetto. Quindi esatto, non riusciamo neanche a sentire niente alla radio perché qua non prende purtroppo. Ah, quindi in fiducia un po', dai. Sì, infatti ho chiamato un po' per sentire attraverso il telefono almeno come va lì in studio. Allora, guarda, ti dico subito, sta andando molto bene. C'è Paul Collins che imbraccia la sua chitarra insieme a Dario dei Radio Days e stavano per suonare. Ci hai appena interrotto, quindi vuoi chiedere qualcosa a Paul Collins? Fantastico, chiedo se può magari farci un pezzo acustico stasera, visto che non riusciremo a sentire in radio. Beh, lo sta per fare, Giacomo, quindi se tu ti sintonizzi sul 99.6 di Radio Onda d'Urto, che devi sentire se stai venendo verso Brescia. Sì. Ma vuoi fare una domanda? Vuoi chiedere qualcosa a Paul Collins perché ti sta sentendo e devi parlare naturalmente in inglese perché non sei ancora attrezzato a parlare wow. In italiano. Hi Paul Collins. Hello. How are you? Very good, how are you? I'm coming to Brescia with a friend of mine. Okay. Okay, I hope to... Is it a girlfriend? No, it's not my girlfriend. He's a beautiful man. Oh, he's your boyfriend then? No. At the moment, I'm not in that stuff. Okay, me neither. So, Paul, what we can dedicate to Giacomo, who is coming to the show? Well, we can dedicate to Giacomo and to everybody listening right now. We're going to do a song that has never been performed publicly anywhere in okay. the world. Great. Wow. Wow. And this will be the first time the three of us are going to play it together. And it's going to be the title of my next album, and the song is called The Kings of Power Pop. Perfetto, allora questo è Paul Collins Beat acustico. Giacomo, grazie mille per aver chiamato, spero grazie che ti goderai questa canzone nella tua autoradio. Alza il volume al massimo. Perfetto, ci vediamo fra poco Giacomo, grazie ciao. Mille. Ciao. Sempre 99.6 di Radio Onda d'Urto, qua siamo qua con una leggenda del Power Pop. E appunto suonerà adesso uno speciale set acustico che alzate al massimo il volume di qualsiasi cosa state ascoltando, radio, auricolari, insomma quant'altro. Lui è Paul Collins con Dario dei Radio Days. Godetevelo. Yeah. A long time ago, all across this land, rock and roll was hurting, it was feeling so bad. A couple of boys picked up their guitars, couldn't really play, so they started writing songs. They were the kings of power pop. At first it wasn't easy, cause no one really cared. They kicked him out of everywhere, they kicked him down the stairs. Standing on the corner of Hollywood and Vine, listening to the man tell me rock and roll it died. We're the kings of power pop. At first to be so hard, eating beans and sleeping in cars. Turn the radio on, make you wanna scream. Then I heard the Ramones, rock and roll radio, and I knew everything was gonna be alright. Well, now I am a daddy, I still play my guitar and try to get it up to be a rock and roll star. Sometimes people, well, they remember me and tell me how great they thought I used to be. They were the kings of power pop. We could not tune our guitars, no one thought we'd go very far. But I got Friday on my mind. Sometimes I feel so bad, other times I am so glad. I still got my Rickenbacker guitar. I wish I were the Beatles or the Rolling Stones, anything but to be sitting here alone. Some of us got lucky, some of us got fame, some of us are standing here with one foot in the grave. They were the kings of power, the kings of power, the kings of power pop, power pop, power pop, power pop. Okay, well, that's Kings of Power Pop. And now we're going to try to play another song. And what's it, Dario? What should we play? Your call. We should play Rock and Roll Girl, I think. I went down to check out the local disco show. I saw the people dancing on the floor. I wish it was an easy way, hey, hey, to meet the girls of today. And if I had a chance, this is what I'd say. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. I pick up the phone and get a dial tone. I call up the number, but nobody is on. But I saw it on my TV. They said they had someone for me. I wish she would answer, give me her name. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. Come on now. I see them walking one by one. I hear them talking, then they are gone. I wish it wasn't easy with it to meet the girls that you did. I really wanna talk, what can I say? I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with a rock and roll girl. I wanna be with the rock and roll girl. I wanna be with the rock and roll girl. Rock and roll. I wanna be with the rock and roll girl. I wanna be with the rock and roll girl. I don't think it was coming on the radio. Okay, questo era Paul Collins Beat con Dario dei Radio Days. Thank you so was much. Was that going on the radio? Yeah. Sure? Yeah. Yeah, I'm totally sure. Okay. It was great. Thank you so much. Oh, we have to say thank you very much to the mother of Franz for the best lasagna in Italy. Thank you so much. But have you tried it? Yeah, I ate it already. Yeah. Okay, that's great. So, Paul, Kings of Power Pop, right? Was the name of the song, and was autobiographical, if I understood well. Well, no, we're gonna make a new album in January or February with Jim Diamond, who produces a lot of bands. The most well-known band is the White Stripes, and he has a studio in Detroit. Okay. And we had this idea to make an album and invite guys like Gentleman Jesse, Chris Von Snydern, John Wicks, who I've been working with from the records, and make a record with all these power pop people that we know. And we came up with the idea of the Kings of Power Pop, and they said, well, if you're going to have a record called the Kings of Power Pop, you better have a song called the Kings of Power Pop. So I was very happy that I came up with that song. It's sort of about me, but it's about all the people that started out like I did a long time ago, because when we started, nobody cared about this music. Okay. And they thought we couldn't play music. They used to throw us out of the music stores. They'd throw us out of the record stores. It's true. And then these people, you know, made music that has lasted 25, 30 years. So it's really a tribute to all those musicians who, when we started, maybe we couldn't play very good, but we could write good songs. Okay. Allora, I translate. Paul Collins ha suonato in prima mondiale, direi, Kings of Power Pop, ovvero un pezzo che ha appena scritto e che sarà, appunto, comparirà nel suo prossimo album, che ha registrato con Jim Diamond, un famoso produttore, insieme a un sacco di altre star del power pop mondiale, tra cui appunto Gentleman Jazz, che siamo appena andati ad ascoltare, e mille altre. E appunto diceva che componendo questo album che contiene parecchie cover del power pop dannata, ovvero 77, 82 o giù di lì, diceva bisogna avere comunque una canzone intitolata Kings of Power Pop, che ha scritto Paul Collins, che ci ha suonato dal vivo, e che da un certo punto di vista è un po' autobiografica, nel senso che parla appunto dell'essere in un gruppo power pop dell'epoca, del comporre musica di quel genere, ma anche un po' può rappresentare o può essere introspettiva per quanto riguarda tutte le persone che in quell'epoca facevano quel tipo di musica, che venivano, un certo Paul dice, bandite dai negozi di dischi, bandite dai club. But Paul, how you would describe the power pop in music, like in three words, like how you would define for people who never listened to power pop, like the power... guitars, yeah? Great melodies, short songs, short song and good songs. Oh, no, wait. Guitars, great melodies, and vocal harmonies. Okay. Very similar to punk rock. Well, different, though, because the difference, I think, in the beginning was the melodies. Yes. It's the only difference. That's a big difference. What do you think is the connection between power pop and punk rock? Now, I think it's all blended together. Okay. Now, when we go to shows, there's people... In the old days... punk people would never listen to power pop, new wave, but now it's all blended together. Okay. And it's really nice. There's people that you know, maybe their favorite band is the Sex Pistols or whatever, but they listen to this music too. I was surprised when we did our first show in Rome, at the Road to Ruins with Peter Paolo 4 or 5 years ago, or something like that. It's a punk festival. Yes. And I was very nervous. I thought, well, we're not punk, so people are going to hate us. But it was not that way at all. And so now I think all that music from that period, the fans, the people like punk, they like new wave, they like power pop or whatever. So it's much better. And it's bigger now than it was in the beginning. Really? The internet has made it bigger. And all the new bands, like Radio Days. You go on MySpace, all these bands who say, what do you play? We play rock and roll, we play power pop. So I think the scene is bigger now. Because you have the people from the old days, but you have all these new people and all these new bands, which for me is great. Allora, Paul parlava appunto della distinzione tra punk rock e power pop, e Paul dice che mentre un tempo, ovvero 77 o giù di lì, c'era una distinzione ben marcata di quanto riguarda chi ascoltava punk rock e chi ascoltava new wave o chi ascoltava power pop, oggigiorno non si riesce bene a capire. Il power pop è molto legato al punk rock, e quindi anche i gruppi power pop che suonano adesso hanno un pubblico che viene un po' da tutti i generi, ovvero c'è chi ascolta punk rock più Ramones, c'è chi ascolta i Sex Pistols, c'è chi ascolta un po' di New Wave, c'è chi ascolta semplicemente buone canzoni. E quindi adesso, insomma, il confine è molto meno marcato. E Paul, I don't know if you agree with that, but even if power pop has everything to be really popular, like great songs, great melodies, like something that even my mom could like. My mother likes my songs. Which is great. But she always goes, is that yours or is that the Beatles? Like, I don't think any power pop, real power pop band, ever been really, really huge. The Raspberries. Well, yeah. The neck, yeah. But, like, even if the genre, the music, it has a commercial appeal, it never, like, all the power pop bands could have been bigger, maybe, during those years. Well, you know, that was then. Maybe now some of these new bands will become very successful. Yeah. You know, like Radio Days or well, you never know, because the thing is, it doesn't matter. I mean, it's there's many forms of music that people follow that they love. Yeah. I mean, power pop is like, you know, rock and roll is kind of like folk music. It's music that people have. People at home, when they listen to their records, they don't know if it was a number one hit or whatever. It's just what they love, and it's a soundtrack to their lives. And I think that, you know, the main thing, the best thing about now, today, instead of like in the 90s, is that bands doing what the kind of music we do and the kind of music the radio does, we can go out and play, and that's how I make my living. I make my living playing this music. For me, that's enough. I'm happy. If, you know, I mean, I'd love to have a number one hit single, but if I can pay my rent playing Rock and Roll Girl, okay. That's great. And we listened to The Blondie Hanging on the Telephone. Can you tell us something about that? I bet everyone asked you about that, but, you know, it's the first time. Well, no, radio. It's funny. A lot of people think Blondie wrote that song. Okay. When we play it, they say, oh, very nice cover of Blondie. And I go, no, it's not a cover of Blondie. Well, I think there was several stories about how that happened, but I think the one that makes the most sense is Jeffrey Lee Pierce from the Gun Club. Yes. Yeah. Was on an airplane when he was a very young kid, before he had the Gun Club, going to Australia, and Blondie, the band, was on the plane, and he gave them a record. He said, you got to listen to this song, because he was a Nerves fan, and he collected lots of music when he was, yeah. And he had the 45, and he gave it to probably, what's the guy's name, the guitar player in Blondie? Chris Tine. He probably gave it to Chris Tine, and they heard it, and they really liked it, and then they decided to do it. Wait. Okay. Chris Tain produced the Las Vegas Story album of the Gun Club. Yes. Was the producer. Yeah, so they were friends. Ah, very friends. Ormai siamo vicini qua a fare salotto, insomma, mancano solo i biscotti, ma abbiamo un sacco di birra. Traduco un po', abbiamo parlato con Paul Collins riguardo al genere power pop, ovvero al fatto che nonostante il power pop sia una musica che probabilmente poteva essere molto più famosa, soprattutto all'epoca, perché aveva tutti i segni che potevano determinarne il successo commerciale, ovvero melodia, ovvero ottime canzoni, ovvero comunque era appetibile a un pubblico molto più vasto. Pochissimi gruppi power pop sono diventati appena famosi in fama mondiale, come diceva Luca, i Neck, sì, o i Raspberries, che comunque qui in Europa conosciamo veramente poco, Romantics, esatto. E chiedevamo appunto come si poneva rispetto a questo, e Paul Collins comunque con grande dignità e grande, cioè, insomma, io ho apprezzato molto quello che diceva, insomma, non si può mai sapere quello che può succedere per quanto riguarda la musica commerciale, io sono comunque molto contento di poter suonare in giro per il mondo ancora adesso alla mia età. Sono molto felice che nuovi ragazzi possano ascoltare le mie canzoni, cantino Rock and Roll Girl, Hanging on the Telephone, conoscano i Nerves, i Beat e quant'altro, e sono molto felice comunque di poter ancora pagarmi, insomma, le bollette con la mia musica, esatto. Poi invece abbiamo parlato del pezzo che abbiamo suonato all'inizio di questo 57esimo episodio di Radio Bam, ovvero Hanging on the Telephone nella versione dei Blondie. E Paul, che ha scritto proprio Paul Collins, e lui dice appunto, la storia divertente è che molte persone l'associano con Blondie, perché appunto Blondie è stata una band di fama internazionale. Attenzione. L'ha scritta Jack Lee. I'm sorry. No, because if Jack Lee is listening he's in British, man. Ok, colpa mia. Comunque, canzone dei Nerves, resa famosa da Blondie, che altro? Niente, semplicemente che la storia divertente è che il cantante o chitarrista del Gun Club, cantante del Gun Club, grande fan dei Nerves, l'ha fatta sentire al chitarrista dei Blondie in un viaggio in aereo. No, al contrario. Ok. Perfetto, allora mi sono sono le 21.59. Non perdiamoci in questo, anche perché Paul Collins si sta sciogliendo. Esatto, beh, fa molto caldo qua. Vogliamo salvarlo per il concerto di stasera, lo ricordiamo, tra poco. Tutti al Lio Bar di Brescia. Intorno alle 11, Radio Days in apertura, Paul Collins Beat al Lio Bar di Brescia. Paul, we have only 1 minute. We just want to introduce your new release. Yeah, isn't that great? 35 years later, we finally get a record out. So, the first live album from the Nerves is called At the Pirates Cove, Cleveland, Ohio, May 26, 77. And we were playing with Devo that night. Oh, yeah? Good. Allora, dicevamo appunto che i Nerves hanno appena pubblicato su Alive, la stessa che ha pubblicato la raccolta di tutto il loro materiale, un album live datato 1977, è probabilmente una delle poche loro ottime registrazioni dell'epoca, quindi vi consiglio di prenderlo. Tra l'altro la mia copia è in edizione limitata a 500 copie in vinile rosa, quindi se andrete a vedere Paul Collins Beat una di queste sere, stasera al Lio Bar, domani alla Zaretta di Bologna, giovedì al Metz di Roma, venerdì allo Spazio 211 di Torino, sabato al Medley Pub di Castelnuovo in provincia di Piacenza e infine domenica all'Oste di Domodossola, potrete avere questo, potete prendere quest'album live dei Nerves, la raccolta, Paul Collins Beat, loro ultimo album edito dalla Getty Records, merchandise di ogni tipo, e stringere la mano a questa leggenda del power pop, Paul Collins. Grazie mille per essere stato qua. Thank you, Paul. We got to listen to your live album. Dopo di noi Desert Caravan con il meglio dello stoner rock e quant'altro. Alle 11 vi do appuntamento al Lio Bar, zona stazione Via Togni 43, come ci ricorda. Saluto i miei ospiti che sono Luca Frazzi di Rumore. Ciao a tutti, ci vediamo al Lio Bar. Cischi, che è con una birra da qualche parte a festeggiare insieme a caso. Jean-Luc Stott, che è al telefono perché oggi i tentalini sono impazziti. Loro sono i Nerves, dal loro album live su Alive con Are You Famous. E grazie mille. Appuntamento a settimana prossima con Radio Bam. Dalle 9 alle 10 gli ospiti saranno i Cheaters. Buona serata. Dopo di noi Desert Caravan.